Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati con Globetrotter 24, ben ritrovata Valeria. Ben ritrovata Annarita. Allora, questa puntata è una puntata tutta italiana, perché siamo state un po' troppo all'estero. Siamo state un po' troppo esterofile e quindi dedichiamoci alla nostra bella Italia. Abbiamo entrambe scelto delle destinazioni di mare, che con il clima ci sta decisamente. Io ti porto in delle isolette meravigliose che non so se tu hai mai visitato. Ti porto alle Tremiti. Tutte le volte che nei miei concerti parlo delle Tremiti, e ne parlo spesso perché molte canzoni quando le presento dico che le ho fatte qua. L'essenza delle Tremiti è una, bisogna amare innanzitutto il mare, perché sennò cioè non puoi venire qua con gli scarponi da sci, bisogna che proprio il mare ti comunichi al di là dell'uso che ne fai. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte. Valeria, ho scelto di partire dalla voce di Lucio Dalla, e quella che state sentendo è una delle tante canzoni composte da Lucio Dalla proprio nella sua casa delle Tremiti. Lucio Dalla le amava tantissimo e io questa settimana ti porto proprio alle Tremiti. Dalla aveva una villa molto bella a San Domino e anche una sala di registrazione. Anche io sono stata a San Domino quando trascorsi le vacanze, pensa che c'era anche il grandissimo Ron. Le Tremiti sono a circa 12 miglia al largo del Gargano in Puglia, le chiamano le perle dell'Adriatico, sono 5: San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e Pianosa. Io, come ti dicevo, sono stata a San Domino, che è la più grande dell'arcipelago delle isole ed è sicuramente la più bella dal punto di vista paesaggistico, oltre ad essere la più completa nell'offerta turistica. Ha tantissimo verde, è ricoperta da una pineta di pini d'Aleppo che arriva in molti punti fino alle rocce. Il bosco è facilmente visitabile perché ci sono numerosi sentieri attrezzati, le acque sono limpidissime, ci sono tantissime spiagge e scogli. Le più famose sono Cala delle Arene, che è l'unica spiaggetta di una certa dimensione presente in tutto l'arcipelago. Poi c'è Cala Matano, che scende a strapiombo sul mare, Cala degli Inglesi, dove affondò un battello inglese di contrabbandieri, Cala Tonda, che forma anche un piccolo laghetto. Ho visitato poi in un giorno San Nicola, che invece è il centro storico e amministrativo dell'arcipelago ed è l'isola più interessante per i resti monumentali. Ci sono torri, fortificazioni, muraglie, chiese, chiostri di una fortezza abbazia, Santa Maria a Mare, nella quale si alternarono i benedettini, i cistercensi ed i lateranensi. Le altre tre isole sono disabitate, si può visitarle in barca, attenzione però che dal 1989 Pianosa è riserva naturale totale, cioè c'è un divieto di approdo e di navigazione. Come arrivare? Varie compagnie marittime collegano le isole Tremiti tutto l'anno. Il porto da cui si effettuano più corse giornaliere è quello di Termoli, tempo della traversata da 50 minuti a 2 ore. Se ve lo potete permettere, parte per le Tremiti anche un elicottero tutti i giorni dall'aeroporto di Foggia, che impiega una ventina di minuti di volo per portarvi in questo paradiso. Macchine e moto non sono di norma ammesse, l'unica isola che, previa autorizzazione del comune, ammette lo sbarco è San Domino, ma comunque non c'è alcun bisogno di macchine perché sono molto piccole le isole. Per dormire alle Tremiti la soluzione più economica è quella del campeggio, ci sono le spiagge libere o altrimenti il costo di un ombrellone o una sdraio si aggira intorno ai 15 euro. Inoltre vi segnalo che non costa poco il parcheggio a Termoli, se volete lasciare lì l'autovettura non costa poco nemmeno il trasporto marittimo. Nel loro gran mondo, come profondo. Ad agosto le isole sono molto affollate e forse, è meglio che io te lo chiarisca Valeria, sono delle isole poco adatte per bambini, quantomeno per bambini piccoli. In linea generale, essendo un posto ideale per chi ama la natura incontaminata, i bimbi hanno sicuramente di che divertirsi e di che imparare. Però le spiagge vere e proprie, come ti dicevo, sono pochissime e quindi si deve trattare, insomma, di bambini che sappiano nuotare molto bene, sappiano adattarsi anche alle calette con le rocce. Per chi ha quindi bambini molto piccoli, forse è meglio optare per una vacanza in un villaggio. Io delle Tremiti ho un ultimo ricordo da riferirti, una visita guidata e il racconto dei guerrieri di Diomede, l'eroe della guerra di Troia, che è morto e sepolto proprio alle isole Tremiti. Di lui oggi resta un canto, il canto delle Diomedee. Secondo la leggenda, i guerrieri di Diomede furono trasformati da Venere in uccelli, le Diomedee appunto, che ogni primavera lasciano l'Africa orientale per nidificare sulle pareti a strapiombo tipiche della costa di queste isole. E il loro canto, che si sente in particolare nelle ore notturne, altro non è, così si racconta, il lamento dei compagni di Diomede che piangono la perdita del loro eroe. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Valeria, la tomba di Diomede non è mai stata trovata. Sull'isola di San Nicola però vi è una tomba di epoca ellenica che è chiamata la tomba di Diomede. Ovviamente non ci sono certezze. Specchio così da potersi guardare, come profondo il mare, come profondo il mare. Abitate fin dal Neolitico, le Tremiti furono colonizzate sia dai Greci sia dai Romani, che ne fecero luogo privilegiato del contatto con l'Illiria, posta di fronte alle loro coste e colonia penale. Nel periodo fascista sulle isole sono stati confinati delinquenti e politici. Le deportazioni terminarono con la caduta del regime fascista. Dagli anni 60 in poi le isole hanno invece assunto il ruolo che conservano ancora oggi, il ruolo di comprensorio turistico di alto valore, soprattutto dal punto di vista naturalistico, come ti dicevo. L'ambiente naturale delle Tremiti si è conservato, Valeria, pressoché intatto, e questo sicuramente contribuisce a renderle magiche. Come profondo il mare. Anna, sono stata alle Tremiti davvero tanti anni fa, ero una ragazzina, quindi non voglio fare il conto di quanto tempo sia passato. Sarebbe davvero bellissimo tornarci perché il ricordo è molto vivo, soprattutto ricordo il colore dell'acqua. L'acqua delle Tremiti ha un colore molto particolare ed è difficile da dimenticare. Anche in questo caso abbiamo i preziosi consigli di Salvatore Carruba e quindi spazio ai libri da portare alle Tremiti. Ambientato alle Tremiti e Tremiti della memoria di Giorgio Robiani e Rosaria Conte, pubblicata da Carabba, che mette a confronto con la modernità le tradizioni dell'arcipelago. A Palermo naturalmente la scelta di libri è molto ampia, la memoria corre subito al Gattopardo, pubblicato dal Feltrinelli, e vi ricordo anche Il viaggio in Italia di Goethe, pubblicato da Mondadori, un viaggio molto importante, un libro bellissimo nel quale Goethe in Italia, in particolare in Sicilia, in particolare a Palermo, in particolare all'Orto Botanico di Palermo, sembra scoprire le origini di tutta la natura. Un bel giallo ambientato in uno dei più bei palazzi di Palermo, Palazzo Chiaramonte, è quello di una scrittrice siciliana, Silvana Laspina, si intitola Morte a Palermo, pubblicato da Et Al. E siccome a Palermo e lì vicino a Cefalù potete scoprire due bellissimi quadri di Antonello da Messina, sempre della Laspina potete leggere La vita romanzata di Antonello da Messina, L'uomo che veniva da Messina, che è pubblicato da Giunti. Poi c'è un'altra grande scrittrice italiana, Dacia Maraini, che ha scritto La lunga vita di Marianne Nucri, ha pubblicato per Rizzoli, ambientato in un altro centro vicinissimo a Palermo, cioè a Bagheria, al quale è pure intitolato un libro della Maraini. L'ambiente dorato e in parte eccentrico della grande nobiltà palermitana invece è presentato in un libro su uno dei suoi ultimi più straordinari esponenti, Raimondo Lanza, principe di Trabia. Protagonista della vita mondana degli anni 40 e 50 del Novecento, ne rievoca le gesta la figlia Raimonda con la nipote Ottavia Casagrande. Il libro si intitola Mi toccherà ballare, l'ultimo principe di Trabia, pubblicato da Feltrinelli. Invece, una Palermo attuale e insolita nella sua difficile quotidianità è A Palermo, scritto tutta una parola, di Carlo Loforti, pubblicato da Baldini e Castoldi, in cui scopriremo quanto sia difficile produrre sfincioni a Palermo. Valeria, è davvero un appuntamento interessantissimo questo con Salvatore, perché in viaggio leggere ha un sapore particolare, è più bello e più intenso, è un vero momento nel quale pensare a se stessi ed è davvero affascinante. Però noi ci fermiamo tra pochissimo, tu mi porti in un altro posto bello, caldo e caro anche il nostro Salvatore. Eh? Eh sì, io tra poco ti porto a Palermo. Globetrotter 24. Eccoci di nuovo qui, Anna, come ti dicevo, io ti porto a Palermo, una Palermo un po' da scoprire senza la guida, perché come poi ribadirò anche più in là, per queste mete io ho scelto di lasciare le guide a casa. Secondo me è più bello andarsene in giro guardando, lasciandosi guidare un po' dal cuore e dagli occhi, per cui soprattutto a Palermo, che è una città così intensa, devo dire che secondo me è una scelta azzeccata quella di passeggiare senza avere la guida sotto gli occhi. Era una bella città, ma ora è bellissima. Il sole, il mare, i fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna, il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere, lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, è sicca, una brutta cosa. Ah sì, è una bruttissima cosa, l'avevo sentita infatti. Ma è la natura e non ci possiamo fare niente. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fanno nemici, famiglia contro famiglia. Io voglio lasciare da parte tutto quello che Palermo purtroppo rappresenta di negativo per i palermitani prima di tutto e per il paese, e concentrarmi solo sulle cose belle, perché ce ne sono un'infinità. Palermo è calda, non mi viene in mente un aggettivo più adeguato. È calda nei colori, nel clima, nella gente. Ti inghiotte quasi con tutto il suo carico di storia, di difficoltà, di ricostruzioni, di restauri, di piccoli tesori nascosti nelle viuzze strette del centro. E Palermo ha un patrimonio architettonico che abbraccia secoli di civiltà diverse. Si va dai resti delle mura puniche per arrivare alle ville, passando dalle residenze, dai luoghi di culto in stile bizantino e arabo-normanno, alle architetture gotiche, le basiliche barocche, i teatri neoclassici, i palazzi razionalisti. Questo è anche uno dei motivi per cui il sito Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui fanno parte i beni monumentali situati in città, nel 2015 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Di cose da vedere a Palermo ce ne sono quante ne volete. Un giro per i mercati è d'obbligo, scegliete voi quale, Vucciria o Ballarò o altri piccoli che trovate in angoli più nascosti. Una passeggiata per il centro storico, via Macheda, via Roma, dove la Palermo Bene ha lasciato le case per trasferirsi nei quartieri residenziali, dove è possibile affittare una casa in un bel palazzo dei primi del Novecento a poche centinaia di euro. Alcune tappe però non si possono saltare. Tanto siete in centro e allora gambe in spalla e si parte dalla cattedrale. Già qui c'è il riassunto di tutte le epoche che hanno attraversato la città, da quella punica a quella borbonica. Il complesso è imponente, se intendete dedicarvici avrete bisogno di almeno un paio d'ore. Non consumate però tutte le energie perché bisogna andare. Andare verso la Piazza Pretoria, per esempio. Di lì a pochi passi due chiese splendide, la chiesa di San Cataldo e la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta anche chiesa Martorana. È una fra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia, testimonia la cultura religiosa e artistica orientale, ulteriormente poi apportata anche dagli esuli albanesi che si erano e si sono rifugiati in Sicilia sotto le persecuzioni turche nei Balcani. La comunità appartiene oggi alla Chiesa Cattolica, ma segue il rito e le tradizioni spirituali che la accomunano in gran parte alla Chiesa Ortodossa. Ancora, impossibile non andare a vedere la Cappella Palatina all'interno del Palazzo dei Normanni, un tempo sede dei re, oggi sede del Parlamento siciliano, fatta costruire da Ruggero II dopo l'incoronazione avvenuta nel 1130. Definita da Maupassant la più bella chiesa del mondo, il più sorprendente gioiello religioso sognato dal pensiero umano. La Cappella Palatina rappresenta un'altra sintesi di forme architettoniche latine, mosaici bizantini. Nei pressi del Palazzo dei Normanni c'è anche la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, che ha queste caratteristiche cupole rosse ed è diventata uno dei simboli della città. Ora ce ne sarebbero ancora mille di cose da dire, ma io vorrei portare la vostra attenzione sul Monte Pellegrino e al santuario dedicato a Santa Rosalia, santa patrona della città. Andate, perché merita, nonostante qualche elemento kitsch, comunque esprime il fortissimo legame tra i palermitani e la loro patrona, un legame sincero, molto profondo. Il santuario si trova proprio all'interno di una spaccatura della roccia, quasi in cima al monte. Custodisce le ossa di Santa Rosalia, che secondo la tradizione sarebbero state trovate sul monte da un cacciatore nel 1624, mentre la peste flagellava la città. E secondo la tradizione, grazie al ritrovamento, la peste venne sconfitta e il Senato palermitano le dedicò il santuario. All'interno ci sono gli ex voto dei palermitani e non solo. Tantissime le richieste esaudite e quelle che ancora aspettano una grazia. Davvero si tratta di un orizzonte sterminato sull'animo umano, perché le richieste sono le più disparate. Torniamo a Palermo per l'ultima segnalazione in città, Palazzo Abatellis. Dovete puntare verso il mare e seguire una cartina perché il palazzo è un po' nascosto nei vicoli palermitani. Bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, se ne è innamorato qualche anno fa anche il regista Wim Wenders. Ospita la Galleria Regionale e, oltre all'Annunziata di Antonello da Messina, ospita anche il Trionfo della Morte. Un quadro, un dipinto datato alla metà del 1400 circa, è considerato uno dei migliori dipinti sul tema, ignoto l'autore. Siete a Palermo e dunque non potete, proprio non potete non andare a fare un bagno a Mondello o a Isola delle Femmine. Dopo Castellammare del Golfo, la strada statale volge verso l'interno. Davanti a voi c'è la riserva dello Zingaro, un gioiello. Dell'area metropolitana di Palermo fa parte anche il comune di Monreale, lo dicevamo all'inizio. Dista pochissimi chilometri e il Duomo vi ripagherà del tragitto. Stile che mette insieme le architetture del nord Europa con quelle arabe, all'interno i mosaici illuminati d'oro, ma secondo me il vero gioiello è il chiostro. Prendetevi del tempo all'interno di questo spazio. Ecco, forse a Palermo vale davvero la pena munirsi di guida, però leggetela prima e poi lasciatela in albergo o in un bed and breakfast. Ce ne sono di bellissimi, a prezzi abbordabili, nei palazzi del centro, quelli con i cortili interni dove potete ancora trovare i laboratori degli artigiani. Valeria, io adoro Palermo, pensa che ci ho addirittura vissuto, ma molti anni fa, quindi ritornarci, anche se solo con il pensiero, è stato davvero bello e ti ringrazio di questo. Siamo però arrivati a un altro appuntamento, quello gustoso del nostro Globetrotter, quello con il nostro gastronauta Davide Paolini, le sue segnalazioni sulle Tremiti e su Palermo. Per l'Italia c'è tantissimo da raccontare. È evidente che le isole Tremiti, per esempio, sono diciamo in un punto di mare davvero straordinario per il pesce azzurro, e quindi ci sono una serie di osterie, di trattorie a buon mercato. Sicuramente non c'è una cucina sofisticata, ma c'è una cucina veritiera, una cucina verace, che è quella di mare. E se poi si va a Palermo, Palermo città, devo dire che offre dei punti caratteristici, ma sono quelli dove bisogna andare. E il primo che mi viene in mente è sicuramente un luogo turistico, ma suggestivo e anche, se vogliamo, divertente. Proprio dentro alla vuceria c'è una trattoria che si chiama Trattoria Ubrodo. Trattoria Ubrodo è un posto dove si mangia incredibilmente vero, ma perché tutti pensano che il bollito sia solo in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna. In realtà si mangia un ottimo bollito e ovviamente tutto a base di brodo, come dice il nome stesso. Ma sono i mercati a Palermo quelli importanti, perché nei mercati palermitani, oltre alla vuceria, si mangia veramente a Ballarò, ad esempio, si mangiano dei cibi di strada, quello chiamato ora food street, ma in realtà molto meglio chiamarlo cibo di strada. Quindi si mangiano delle zuppe, si mangia del pesce fritto, si mangiano delle sardine sottosale, si mangiano anche delle cose che altrove non si mangiano, tipo la testa di maiale. Quindi sono cose molto particolari che non a tutti piacciono, però sicuramente i luoghi sono caratterizzanti e sono da vedere. Poi chi da Palermo volesse arrivare a Mondello c'è un ristorante che si chiama Blue Bay, che sicuramente è un locale dove si mangia un'ottima cucina di mare e ovviamente si vede un panorama molto ma molto bello. Anna, per le puntate dedicate all'Italia abbiamo pensato di non dividere le stranezze, le particolarità legate al singolo territorio, perché per quanto riguarda l'Italia ce ne sono tante, ma a volte sono più diffuse. Al sud, più al nord, sono un po' qua e là. Quindi abbiamo fatto una piccola selezione per ogni puntata dedicata al nostro paese. Questa è una prima selezione. Passeggiando non torna a essere garbato e presentabile come cittadini di Palermo allineati corridori sotterranei dei Cappuccini a Porta Nuova. Stanno là, allineati, rinsecchiti e godono la stima di tutti. Così Thomas Mann nella Montagna Incantata. Il convento dei Cappuccini a Palermo, nel quartiere Cuba, è annesso alla chiesa di Santa Maria della Pace. Nel sotterraneo si trovano le famose catacombe dei Cappuccini, così chiamate, ma in realtà cimitero e non catacomba, cioè luogo di culto e riunione paleocristiana. Tra le salme è particolarmente nota quella di Rosalia Lombardo, visibile nella cappella di Santa Rosalia in fondo al primo corridoio sulla sinistra. Nata a Palermo il 13 dicembre 1918 e morta di polmonite 2 anni dopo, la bambina è stata una delle ultime persone ad essere ammesse alla sepoltura nella cripta. L'imbalsamazione, fortemente voluta dal padre affranto, fu curata dal professor Alfredo Salafia, lo stesso che imbalsamò Francesco Crispi. Ancora sotto, questa volta a Napoli. Il viaggio nella Napoli sotterranea vi conquisterà. Ogni epoca dalla fondazione della Neapolis alle bombe della Seconda Guerra Mondiale ha lasciato traccia sulle mura di tufo giallo, pietra con cui la città è costruita. A 40 metri di profondità, sotto le caratteristiche vie del centro storico di Napoli, si trova un mondo a parte, per molto ancora inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria, eppure strettamente collegato con la città. Aperto tutte le estati, il parco di Villa De Midhoff, vicino a Firenze, oltre ad ospitare piante ed ornamenti di grande interesse, dà spazio anche all'antico gigante dell'Appennino, una grande costruzione in pietra, opera del Gian Bologna, risalente al XVI secolo e all'interno del quale vi si trovano anche alcuni locali decorati. Per chi ama il volo e le emozioni forti, in Basilicata c'è quello che fa per voi. Il volo dell'angelo, da aprile e fino a ottobre. Al di sopra delle Dolomiti Lucane, un cavo d'acciaio sospeso tra Castel Mezzano e Pietra Pertosa. Legati attraverso un'apposita imbracatura e agganciati al cavo, in pochi minuti, volando letteralmente, andrete da un paese all'altro. Da quest'anno potete farlo anche in coppia. Modici i prezzi, 40 euro per un biglietto singolo, 70 per la coppia. E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Globetrotter 24. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email globetrotter24@radio24.it. Mi raccomando, scriveteci, inviateci tutte le vostre segnalazioni. Alla prossima puntata.